Uno scudo bello e netto in sacco accettar. Uno scudo bello e detto in saccoccia, in saccoccia può accettar, in saccoccia può accettar. Grammi voto